Io sono Beatrice Manetti, la direttrice del CIRS, e do il benvenuto a tutte e a tutti, i presenti e le presenti, in particolare i e le nostre ospiti, che poi lascerò, la cui presentazione lascerò a Manuela Manera, a cui dobbiamo l'ideazione e l'organizzazione di questa tavola rotonda dedicata a parole, rappresentazioni, normatività, dal sessismo linguistico al linguaggio inclusivo. Questo appuntamento fa parte di una più ampia sinergia o collaborazione del CIRSDE con Off Topic nell'ambito del festival che Off Topic organizza anche quest'anno, che si chiama Mind the Gap, di cui vedete alle mie spalle l'immagine e il logo. È un festival dedicato alle questioni più importanti in gioco e oggetto di dibattito nei femminismi contemporanei. Per noi è una collaborazione nuova e quanto mai preziosa perché risponde al nostro desiderio come centro interdisciplinare universitario di aprire da un lato le porte dell'università ai saperi e alle pratiche che si svolgono al di fuori dell'università e al tempo stesso di portare l'università in contesti che non le sono abituali. Infatti, l'incontro di oggi si colloca esattamente a metà tra altre due iniziative. Sono quattro tavoli di discussione, due si sono svolti ieri, due si svolgeranno domattina a Off Topic, nella sede di Off Topic. I primi due erano dedicati a femminismo anticoloniale, scusate, anticapitalista e ecofemminismo. Cioè, so che sono andati molto bene, c'è stata grande partecipazione e grande vivacità. Non sono seminari, non sono workshop, sono meno che mai sono lezioni frontali, sono proprio incontri, appunto in un contesto non accademico, in un contesto iperdemocratico di discussione, di confronto e di discussione. I due tavoli che invece si svolgeranno domattina sono dedicati rispettivamente al femminismo decoloniale e a corpi non conformi, così l'abbiamo chiamato, antiabilismo e dintorni. Insomma, abbiamo cercato, no? Oggi parliamo di linguaggio inclusivo, ieri e domani di altre questioni, di individuare le questioni, non dico più nuove, anche se forse per il dibattito italiano sono abbastanza nuove, ma comunque le questioni che in questo momento impegnano chiunque si definisca femminista o abbia interesse per le questioni di genere. L'ultima cosa che volevo dirvi è che sempre in questo progetto, a più ampio raggio, stiamo lavorando e siamo a buon punto con la realizzazione di quattro podcast che saranno fruibili a partire dal 6 giugno. Sono quattro che corrispondono alle questioni a cui sono dedicati i tavoli di discussione nell'ambito del festival. Sono quattro, avranno cadenza settimanale, cinque pillole, poi una puntata, diciamo, più lunga, riepilogativa della questione affrontata. Dal 6 giugno appunto saranno su Spotify, mi confermi Silvia, ma già da adesso, sempre su Spotify, è possibile ascoltare una sorta di spot, no? Di presentazione realizzata da il conduttore e la conduttrice dei podcast che sono Francesca Tampone e Matteo Botta. Il titolo dei podcast è Femminista si diventa. Punto esclamativo. Io non vi rubo altro tempo, vi ringrazio di nuovo, chi è al tavolo e chi è in sala di essere qui e lascio la parola a Manuela per l'avvio della tavola rotonda. Grazie.